Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati al secondo appuntamento delle feste con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi, prima puntata del 2020, vi rinnoviamo innanzitutto i nostri migliori auguri di buon anno. Cosa vi abbiamo riservato per cominciare al meglio la serie di puntate dei prossimi 12 mesi? Beh, abbiamo innanzitutto deciso di regalarvi un viaggio transcontinentale che ci porterà per iniziare in India e successivamente torneremo in Europa. Europa del Nord, per la precisione. Tema centrale della puntata sarà lo studio all'estero, sia che varchiate i confini fin dalle scuole superiori e sia che lo facciate con la mobilità Erasmus. A dispensare consigli preziosissimi oggi due giovani studenti che hanno vissuto sulla propria pelle queste straordinarie esperienze di formazione internazionale. In chiusura di puntata vi suggeriremo un'app davvero utilissima per cercare tirocini in Europa. È gratuita e può rivelarsi una banca dati straordinaria per la vostra ricerca di uno stage nel vecchio continente. Generazione Mobile. Partiamo allora subito con la prima storia di oggi. Gabriele 40, 17 anni, è uno studente che ha fatto le valigie per andare in India. Abbiamo intervistato Gabriele lo scorso settembre. Sentiamo subito cosa ci ha raccontato. Il testimone. Il testimone della settimana è un 17enne che ha preso una decisione coraggiosa: fare le valigie e partire per un intero anno di scambio di studio in India, affrontando un cambio di latitudine, continente, lingua, ma soprattutto di cultura. Oggi Gabriele è qui a raccontarcelo e a raccontarvelo per mostrarvi una strada diversa e alternativa tra quelle che possono arricchire il percorso formativo di voi giovani all'ascolto. Buon pomeriggio, Gabriele 40. Buon pomeriggio. Gabriele, come hai preso la decisione di lasciare l'Italia e approdare in India per un intero anno di studio all'estero? Allora, la mia idea era quella di stravolgere completamente la mia vita. Volevo fare quell'esperienza che mi avrebbe cambiato totalmente. Sicuramente adesso sto vivendo in un mondo completamente diverso, però anche al mio ritorno sarò cambiato. Chiaro. Io, perché l'esperienza che sto facendo qui non l'avrei mai fatta. Immaginiamo. Ma l'India è stata la tua prima scelta o avevi anche altre destinazioni in mente prima di partire? No, l'India non è stata la mia prima scelta e non è stata neanche una delle mie scelte. Mi è stata proposta da Intercultura prima dei risultati, perché Intercultura si era resa conto del mio interesse per le materie scientifiche e mi voleva dare la possibilità di studiare in una scuola di eccellenza in India. Allora io ho subito accettato, non soltanto per questo fatto della scuola, ma anche e soprattutto per la meravigliosa cultura indiana, che effettivamente, adesso posso dirlo, è enorme. Abbiamo capito che ti sei innamorato del paese. Passiamo ai consigli. Datevi subito da fare con i preparativi, dici. Quali sono i passi imprescindibili da fare per non rischiare di farsi trovare impreparati il giorno della partenza? Allora, certamente con Intercultura avrete una serie di documenti da preparare, di scrivere una serie di cose, e fate tutto il prima possibile, non riducetevi all'ultimo momento, perché altrimenti sarete con un mare di cose da fare in pochissimi giorni. Scrivete nelle lettere, nelle cose che vi verranno chieste, tutto quello che vi sentite, siate voi stessi al 100%, e poi soprattutto non lasciate la valigia all'ultimo minuto. Non abbiate paura delle cose da portare, perché all'estero comunque si trova tutto. Anche... L'unico consiglio sulla valigia è portate tanti regalini da fare. Arriviamo all'impatto con l'India. Subito mi è apparsa come una terra meravigliosa. Quello che mi ha colpito è il caos enorme che c'è in queste strade. Racconti, ce lo descrivi meglio questo primo impatto. Certo, l'India è stupenda. Per le strade c'è un traffico assurdo che in Italia non avrei mai immaginato. Un rumore di clacson, c'è gente che chiede l'elemosina. Però in tutto questo c'è qualcosa di speciale, ci sono dei colori, delle musiche, degli odori, le danze, il fatto che questa gente povera sia comunque felice e che ti guardi con il sorriso, sono tutte cose che mi fanno stare bene. Tu tra l'altro consigli di scrivere un diario per facilitare l'adattamento, ma vorrei con te arrivare alla scuola. Quanto è diversa rispetto a quella italiana? È tanto diversa. Qui danno molta importanza alla scuola e ai voti che prendono, perché è grazie ai voti degli esami che loro poi vengono ammessi all'università, al college, quindi studiano praticamente sempre. E, il rapporto con gli insegnanti è molto diverso, anche questo è molto più distaccato. anche se in certi momenti sembra che gli insegnanti e gli alunni siano migliori amici. E come funzionano le lezioni? Studi in inglese? Sì, in inglese, tecnicamente è una scuola inglese, però alcuni professori spesso anche parlano in hindi perché si trovano più comodi. E le lezioni sono più brevi e si fanno comunque 5 materie, anche se sono fatte molto più approfonditamente rispetto all'Italia. E non ci sono interrogazioni perché ogni mese e mezzo, 2 mesi si fanno gli esami. Parliamo della famiglia. Tu dove vivi innanzitutto? In che città? Allora, io vivo in boarding school, ovvero nell'ostello della scuola durante la settimana, e poi nel weekend o durante le feste vivo in famiglia. Dove? In Indore, una città nel centro dell'India. E quanto è diversa la dimensione familiare nel rapporto proprio che hai con la tua famiglia ospitante? Allora, c'è un grande legame familiare qui in India. Si sta molto tempo insieme, si parla dopo cena, si fanno anche dei giochi insieme, tutta la famiglia, i genitori, i figli. Poi c'è un grande rispetto verso le persone più grandi, quindi se qualcosa viene detto dai membri della famiglia che sono più adulti, questa cosa non può essere, è indiscussa assolutamente, non si può contraddire. Però ci raggiungerà in linea Augusta Ramaccioni, ex studentessa in scambio in India, quasi un decennio fa però. Buon pomeriggio, Augusta. Ciao Sergio, ciao a tutti. Qualche numero per cominciare: quest'anno 302 studenti intercultura hanno scelto l'Asia per il periodo di scambio all'estero, una trentina di loro si sono recati in India dove hanno potuto scegliere tra un programma di ospitalità in famiglia o uno in boarding school con un weekend in famiglia, come è il caso di Gabriele. Augusta, tu per l'India sei partita 9 anni fa, che ricordi porti di quella esperienza di scambio a distanza di ormai diversi anni? Proprio perché sono passati tanti anni, dei ricordi sicuramente edulcorati. Comunque ricordo l'immagine di una me che non ha alcuna idea di quello che le si sarebbe prospettato avanti, ed è un'immagine tenerissima. Dei ricordi un'esperienza che fu più dura di quello che avevo prospettato, ma che comunque si è rivelata una delle esperienze migliori che abbia fatto in tutta la mia vita, che me l'ha cambiata in meglio. E sicuramente ha poi influenzato anche le tue scelte successive, perché tu da poco hai terminato un master in diritti umani a Bruxelles e lavori come program executive presso un think tank della capitale belga. Arriviamo però anche in questo caso ai tuoi consigli pratici. Non abbiate paura di partire per paesi difficili, scrivi a generazionemobile@radio24.it. perché? Perché penso che di anno all'estero non sia morto nessuno, e perché penso che tutti saranno sorpresi di vedere quali risorse saranno in grado di tirare fuori una volta che saranno messi davanti al momento del bisogno. E perché penso che tutto sia una questione di abitudini. Quello che a noi sembra duro qua non è duro là. E che se vive 1 miliardo di persone in India significa che non è poi così tanto duro vivere là. Viaggiare significa anche relativizzare un po' tutto, anche le difficoltà. Come affrontare più in generale la scuola indiana? Gabriele già ce ne ha parlato, però che ricordi hai? Come ha detto lui, mi ricordo che i miei compagni studiavano moltissimo e quindi direi di prepararsi a studiare molto e anche a ridimensionare le aspettative che si hanno sui propri rendimenti scolastici e di pensare anche comunque che l'esperienza di intercultura non si esaurisce in quella scolastica. E mi piace molto un consiglio che ci hai mandato, quello di approfittare di questa esperienza qualora si avesse già in mente una carriera da inseguire dopo gli studi. Come? Per esempio, se si avesse in mente di perseguire degli studi internazionali, di andare in un paese la cui lingua l'apprendimento della cui lingua sarebbe più difficile tra i banchi di scuola, o per esempio se si volesse intraprendere una carriera nell'economia internazionale, magari di considerare un paese come la Cina, che sicuramente ricoprirà un ruolo importante nei prossimi anni. Grazie ad Augusta Ramaccioni. Abbiamo la domanda di rito per Gabriele 40, il primo consiglio pratico che dareste a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero. Allora, certamente di non avere nessun limite e aprire la propria mente ad ogni possibilità, sia durante l'esperienza che nella scelta del paese. Let's go, make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now. Let's go, your time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you're going, no matter. testimonianza di Gabriele 40, ricca di consigli e spunti pratici, ci consegna la breve pausa per gli aggiornamenti sul traffico. Non cambiate frequenza perché tra pochissimo riprendiamo tornando in Europa e sarà un paese, quello dove atterreremo, molto intonato a questo periodo invernale. Vi approderemo, per essere precisi, in Erasmus. Il nostro passaporto radiofonico valido per espatrio si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa seconda e ultima puntata speciale delle feste, due destinazioni tra loro geograficamente lontanissime, India e Norvegia. Dal paese asiatico, dove abbiamo ascoltato la testimonianza e i consigli di Gabriele 40, ci trasferiamo ora nel paese del Nord Europa, dove ci attende il 22enne Matteo Moroni, studente Erasmus. Riprendiamo dunque con l'ascolto dell'intervista a Matteo che abbiamo registrato lo scorso ottobre. Il testimone. Il testimone della settimana è un giovane studente universitario di 22 anni. Matteo ha scelto la Norvegia per trascorrere il periodo di studi Erasmus all'estero, un programma che è diventato un must ormai per gli studenti universitari italiani ed europei. Meno battuta e frequentata invece è la destinazione scelta dal protagonista della settimana. Oggi lui è qui per raccontarcela meglio. Buon pomeriggio Matteo Moroni. Buon pomeriggio Sergio, buon pomeriggio a tutti. Laurea in economia e laurea magistrale in marketing nel tuo curriculum. Matteo, poi la decisione di tentare l'esperienza Erasmus. Prima di tutto perché? Cosa rappresentava per te? Diciamo che l'Erasmus rappresentava una sfida sia per le conoscenze linguistiche sia per il tipo di possibilità offerta da questo tipo di esperienza. E quindi era un modo per mettere alla prova le mie capacità e anche viaggiare e vedere il mondo, diciamo. E perché proprio la Norvegia come meta? La Norvegia perché era un paese che comunque mi ha sempre interessato, ha una cultura completamente diversa e quindi lo volevo scoprire anche attraverso, appunto, abitandoci e trascorrendo molto tempo lì. Arriviamo ai tuoi consigli pratici che costituiscono l'ossatura principale di Generazione Mobile. Innanzitutto ci racconti dove ti trovi ora e come ti trovi? In questo momento mi trovo a Kristiansand, che è una città della Norvegia che si trova all'estremo sud, e mi sto trovando particolarmente bene perché l'ambiente è veramente ospitale, sia quello creato dall'università sia quello della città, che è molto, è una piccola città però è molto bella, e la differenza, diciamo, che comunque sia che il tempo è completamente diverso da quello che c'è in Italia, quindi la differenza si sente. Prima di partire suggerisci fare alcune verifiche preliminari importanti, non solo sul paese di destinazione ma anche sull'università ospitante. Su cosa occorre informarsi? Direi che la prima cosa su cui bisogna informarsi sono gli esami che è possibile dare nel paese ospitante, poiché da lì poi si può diramare la scelta su dove andare. E dopodiché anche guardare comunque i costi del paese, la tipologia di livello linguistico e di lingua che bisogna poter parlare per dare gli esami e per comunque vivere bene nel paese, poi anche basarsi, insomma, su quante sono le possibilità di poter entrare in un determinato paese, quindi anche le richieste che ci sono o comunque anche i propri costi personali. Matteo, a chi affidarsi per fare queste verifiche? Per queste verifiche le università mettono a disposizione ad esempio degli uffici Erasmus, che sono molto utili, diciamo, perché danno tutte le informazioni che sono necessarie per sviluppare, appunto, un buon piano di studio estero e avere tutte le informazioni sul paese anche e sui documenti da presentare. Inoltre è possibile affidarsi anche a tutti gli studenti che sono già comunque stati all'estero, magari nel paese di nostro interesse. È stata una cosa che ho trovato particolarmente utile. Allora, superata la prima fase, ricevute le lettere di accettazione dall'università ospitante, si passa ad altre incombenze pratiche. L'alloggio, come cercarlo? L'alloggio, il metodo che è stato usato qui in Norvegia è in pratica che l'università, avendo dei collegamenti con altre ditte, diciamo, di alloggio e ad esempio anche sportive, è l'università stessa che collega con gli alloggi, però comunque sia attraverso dei portali è possibile comunque vedere tutte le offerte nel paese e cercare quella più appropriata, diciamo, per le proprie esigenze. E ce ne sono di svariati tipi, più o meno vicino all'università, con più persone o meno persone, quindi la scelta è molto vasta. C'è un altro capitolo importante che è rappresentato dalla sanità. Che coperture hai qui? Sì. In questo momento la sanità è coperta da la stessa, quella valida in Europa, diciamo. Quindi ho portato semplicemente la tessera sanitaria, quella italiana. È possibile però anche sviluppare altre coperture private, però non ne ho avuto il bisogno per ora. Per la valuta basta comunque avere una carta di credito o di debito che abbia dei buoni tassi sulle commissioni, o comunque che abbia nulli tassi sulle commissioni, certo. Va benissimo comunque. La borsa di studio Erasmus è sufficiente a coprire i costi mensili? Diciamo che questo dipende molto dalla scelta del tipo d'alloggio che si sceglie. Matteo, l'impatto invece a livello di studio, quanto il sistema universitario norvegese è diverso dal nostro? Diciamo che sono molto simili, le differenze le ho notate però comunque su come sono impostate le lezioni, poiché diciamo che sono dividono molto il tempo fra la lezione stessa e poi i lavori di gruppo che sono alla fine di ogni lezione, oppure anche gli esami che comunque hanno delle votazioni diverse dalle nostre o sono addirittura svolti completamente online o da casa, quindi su queste cose c'è molta differenza. A volte è capitato anche ad esempio di fare progetti di gruppo e firmare una specie di contratto di rispetto reciproco fra i partecipanti, sono un po' diverse le cose qui, però comunque diciamo che è strutturata allo stesso modo. Tu studi in inglese? Sì, sto studiando in inglese, completamente in inglese. Questo è importante anche da sapere, insomma, che il norvegese sì. Non è obbligatorio. C'è un aspetto non secondario nella tua storia ed è relativo alla sindrome di Poland di cui sei affetto e che affronti con grande determinazione. In questo senso la Norvegia è un paese che ti ha accolto e ti ha aiutato nell'inserimento nel nuovo contesto? Sì, dalla partenza ho avuto comunque gran supporto anche dall'università stessa, quella in Italia. E qui in Norvegia è stato abbastanza facile perché diciamo le infrastrutture non presentano alcun tipo di barriera architettonica, non ho mai trovato problemi o comunque le persone sono sempre state disponibilissime ad aiutarmi. Tu hai un messaggio anche positivo, se capisco bene, da lanciare agli studenti con disabilità su come vivere e affrontare l'esperienza Erasmus. Cosa vuoi dire loro? Io direi assolutamente di partire a tutti gli studenti perché comunque sia... se si sentono pronti di fare un'esperienza del genere, che di sicuro è una cosa che ricorderanno per tutta la vita, conviene farla perché questa è l'età, penso, perfetta per farla. Ne otterranno moltissimo, otterranno veramente un bagaglio immenso e soprattutto se si ha una disabilità è sempre bello vedere fino a dove si può spingere la propria volontà e la voglia di vedere il mondo che riesce a sopraffare completamente magari quelli che sono dei limiti fisici che col tempo riusciamo a gestire sempre meglio. Ci raggiunge ora in linea Claudia Peritore, capo unità istruzione superiore Erasmus Plus. Buon pomeriggio e ben trovata soprattutto. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Allora le chiediamo quali sono i dati relativi agli scambi tra l'Italia e i paesi scandinavi in termini di studenti Erasmus? La Norvegia è una meta ambita? Allora, ultimamente stiamo registrando una sorta di diversificazione, diciamo così, dei paesi di destinazione prescelti dai nostri studenti in mobilità Erasmus per vari motivi, sicuramente anche motivi legati alla sicurezza. Negli ultimi anni ci sono stati un po' di cambi di rotta per questo motivo anche in Europa. In ogni caso la Spagna mantiene il traguardo del 30%, attrae ancora il 30% dei nostri studenti in mobilità, ma ciò nonostante i paesi settentrionali, tra cui la Norvegia, hanno registrato un incremento come paesi ospitanti i nostri studenti. E tra i quattro paesi Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia, la Norvegia diciamo è il terzo paese che ha accolto circa 500 studenti italiani in mobilità, non pochi, esatto. E quali sono le principali aree di studio all'interno degli scambi italo-norvegesi in materia di Erasmus? Diciamo che la Norvegia risulta un paese interessante per studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari, sicuramente l'ambito economico come il nostro Matteo, ma anche per giurisprudenza, le scienze sociali, nonché anche per le scienze umane, letteratura, lingue, ma anche medicina, ingegneria, quindi diciamo veramente un ampio ventaglio di aree disciplinari. Gli istituti norvegesi sono attrattivi per vari ambiti. E torniamo per chiudere sul tema Erasmus e disabilità. Dal vostro osservatorio, quanto l'interscambio Erasmus è strutturato per poter garantire anche agli studenti con problemi fisici di poter partecipare ai programmi di scambio internazionali? Sia per gli studenti che per i docenti o lo staff con bisogni speciali sono previsti dei contributi aggiuntivi, quindi un contributo economico ad integrazione della borsa mensile prevista per lo scambio Erasmus, legato alle spese che la condizione specifica prevede in mobilità. Ogni agenzia nazionale, nel nostro caso l'agenzia italiana, pubblica annualmente un bando rivolto alle università partecipanti per raccogliere le richieste di questo contributo aggiuntivo. Grazie a Claudia Peritore. Abbiamo la domanda di rito per Matteo Moroni: il primo consiglio pratico che dareste a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Io direi il primo consiglio è quello di lasciar perdere le proprie paure e buttarsi veramente in questa esperienza, perché so benissimo che la cosa che frena di più è lasciare tutto quello che si ha nel proprio paese, però sinceramente non c'è niente di lasciato, perché comunque è semplicemente diciamo una piccola pausa dalla routine della vita che abbiamo sempre, e poi si ricomincia tutto come prima, solo che si è molto cresciuti, diciamo. Internet Point. Siamo giunti all'angolo dei consigli utili, lo facciamo con una puntata speciale di Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni in rete create dagli italiani all'estero. Vi parliamo oggi di un'app, abbastanza unica nel suo genere, pensata per fornirvi un pratico strumento digitale essenziale per aiutarvi nella ricerca di un tirocinio in Europa. Come sappiamo, molto spesso sono proprio le informazioni e gli orientamenti base a mancare più che le offerte, ma Stage4U punta a colmare questo gap. Giuseppe Iuzzolino, ricercatore INAPE tra i creatori di Stage4U, ci spiega come avvalersi di questo strumento gratuito online. Stage4U, diciamo che è una storia abbastanza lunga, nasce nel 2011 da un manuale cartaceo. Noi realizzammo 8 anni fa il manuale dello stage in Europa. Un paio d'anni fa abbiamo deciso di adeguarci ai tempi e abbiamo realizzato un sito web ed un'app mobile che ha delle funzioni decisamente più importanti rispetto e più significative rispetto al manuale cartaceo. Adesso, rispetto al manuale, noi abbiamo inserito all'interno dell'app e del sito tutta una serie di informazioni, consigli, suggerimenti di cui hanno bisogno i ragazzi che vogliono fare uno stage in Europa, ma oltre a questo noi pubblichiamo quotidianamente le migliori offerte di stage all'interno delle multinazionali, delle aziende multinazionali e delle maggiori organizzazioni internazionali. Andiamo sul pratico. Io scarico la app Stage4U e poi cosa posso fare? Dopo essermi ovviamente iscritto, profilato, eccetera, cosa posso trovarvi? Molto spesso i ragazzi ci chiedono se questo servizio abbia un costo. No, non ci sono costi. L'app è assolutamente gratuita, è un servizio gratuito realizzato dall'INAP. La prima cosa da fare nel momento in cui si scarica l'app, questo è il consiglio che posso dare a tutti i ragazzi, di selezionare immediatamente le proprie preferenze, di andare su preferenze e selezionare i paesi in cui il ragazzo intende fare lo stage e le aree professionali in cui intende inserirsi. In questo modo, nel momento in cui noi su Stage4U pubblichiamo un'offerta che risponde ai requisiti selezionati dal ragazzo, al ragazzo arriva direttamente sul suo smartphone una push notification con l'offerta di suo interesse, sostanzialmente, che risponde ai requisiti che lui stesso ha selezionato. Tra l'altro, non ci sono solamente offerte concrete di stage sia nel pubblico sia nel privato, ma ci sono anche delle schede paese, ci sono anche delle scadenze di bandi pubblici o in agenzie europee. C'è tutto un mondo, come dire, legato allo stage. Assolutamente, noi abbiamo cercato veramente di creare uno strumento concreto e completo che comprendesse a 360 gradi il mondo dello stage in Europa. Quindi diamo notizia in home page dei bandi di agenzie europee, delle istituzioni dell'Unione. Oltre a questo, ovviamente, ragazzi, invito i ragazzi a vedere anche le sezioni del sito che riguardano, diciamo, gli aspetti preliminari alla ricerca dello stage. Faccio un esempio: la mia candidatura verrà sistematicamente cestinata se il mio curriculum non è scritto bene. Ecco, noi diamo delle informazioni, dei consigli e dei suggerimenti per scrivere un curriculum adeguato, oppure i prerequisiti necessari per proporsi per uno stage all'estero. Il primo consiglio che posso dare ai ragazzi: imparate bene, perfezionate bene la conoscenza della lingua, perché è essenziale. Per maggiori informazioni potete cliccare su stage4u.it.